Focus Economia. e 45 secondi in questo momento. Un saluto da Vincenzo Miglietta e bentrovati con una nuova puntata di Focus Economia. Prima di scoprire insieme i temi della nostra puntata, un'anticipazione sull'andamento dei mercati. Mercati sostanzialmente stabili dopo l'apertura di Wall Street. Il FTSE MIB in questo momento è meno 0,25%, FTSE All Share meno 0,26%, Wall Street sostanzialmente stabile, Dow Jones meno 0,28%, Nasdaq meno 0,01%, cambio euro-dollaro 1,33%, spread BTP Bund 248 punti base, in giornata ha raggiunto anche i 250 punti. Di tutto questo parleremo nella seconda mezz'ora di Focus Economia. Il nostro sommario ora, nel nostro primo approfondimento, cercheremo di capire quanto è verosimile una crisi di governo a causa delle tensioni tra Popolo della Libertà e Partito Democratico per un'eventuale non soluzione del caso Berlusconi, quali le conseguenze soprattutto sotto l'aspetto economico. Quindi l'ampia pagina dedicata ai mercati, Piazza Affari con i migliori e i peggiori, con un focus particolare oggi sui mercati dei paesi emergenti. Quelli che un tempo erano delle tigri, ma ora sono con una crescita molto più contenuta. In chiusura il turismo e la cronica incapacità di essere validamente sul mercato di alcune parti del nostro paese. Questi dunque i temi di Focus Economia di oggi. Aspettiamo i vostri suggerimenti al numero per gli SMS 349-238-6666. Vi ricordo anche la pagina di Focus Economia su Facebook. Ma veniamo ora alle consuete notizie in breve. Partiamo al solito dalle materie prime. L'oro in calo a 1369,68 dollari l'oncia, meno 0,3%. Il petrolio nelle prime battute a New York apre in calo, dove le quotazioni perdono lo 0,29% a 104,81 dollari al barile. E a proposito di materie prime, vi è da fare una considerazione che non è prettamente economica, ma lo è nel lungo termine. Secondo uno studio del Global Footprint Network, da ieri la domanda umana di risorse naturali ha superato la capacità della Terra di produrle. Il cosiddetto Earth Overshoot Day significa che al momento l'umanità avrebbe bisogno di una terra e mezza per soddisfare le sue necessità senza alterare gli equilibri del pianeta. E ora qualche notizia di economia internazionale. La banca centrale indiana ha deciso di acquistare 1,2 miliardi di dollari di titoli pubblici per fornire liquidità alle banche del paese. La situazione finanziaria del paese si sta rapidamente deteriorando. La moneta locale, la rupia, ha perso da inizio anno il 17% del suo valore nei confronti del dollaro. E questo un tema che tratteremo più tardi. Una settimana fa un dollaro si scambiava con 60 rupie e oggi ne servono oltre 64. Le riserve in dollari del paese sono scese da 261 a 251 miliardi solo tra giugno e luglio, e solo nell'ultimo mese la borsa indiana ha perso oltre il 10%. Negli Stati Uniti ora l'industria manifatturiera americana alla riscossa, il settore diventa sempre più competitivo e entro la fine del decennio strapperà fra i 70 e i 115 miliardi di dollari in esportazioni agli altri paesi del mondo, un aumento che farà sentire i suoi effetti sul mercato del lavoro con la creazione di 2,5 fino a 5 milioni di nuovi posti negli USA entro il 2020. A scattare la fotografia dell'industria manifatturiera americana è Boston Consulting Group, secondo il quale gli Stati Uniti si stanno affermando fra le economie avanzate come il paese a più basso costo per l'industria manifatturiera. Un altro segnale positivo per gli Stati Uniti, la vendita di case esistenti nel paese in luglio sono salite di 6,5% a un tasso annualizzato di 5,39 milioni di unità. Si tratta dell'aumento maggiore da novembre del 2009. Il dato è superiore alle attese degli analisti che scommettevano su un tasso annualizzato di 5,15 milioni di unità, altro elemento questo che dà il polso dell'andamento positivo proprio dell'economia a stelle e strisce. Parliamo anche oggi di JP Morgan, il terzo giorno consecutivo. JP Morgan ha assunto un maxi studio legale di New York per condurre un'indagine interna sulle pratiche di assunzione a Hong Kong. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti secondo le quali la banca vuole capire la vera entità del problema dopo che la SEC ha avviato un'inchiesta sull'assunzione in Cina da parte sempre di JP Morgan del figlio di un ex regolatore bancario cinese e della figlia di un ex manager delle Ferrovie cinesi. Torniamo in Europa, la Grecia. La posizione della Commissione europea sulla situazione in Grecia è nota e non è cambiata e dal commissario Rehn non è arrivata nessuna risposta di conferma all'allarme lanciato da Berlino sulla necessità di un terzo pacchetto di aiuti per Atene. Lo ricorderete, ne avevamo parlato ieri, vi erano delle indicazioni da Berlino secondo le quali sarebbero serviti ulteriori aiuti per Atene, ma dal governo della Grecia dicono di no, andrebbe tutto bene come ha concluso la Troica, a luglio l'attuazione del programma prosegue in modo efficace, e dice sempre questo portavoce, l'ultimo Eurogruppo si è congratulato con il governo greco, ora la prossima tappa sarà la missione della stessa Troica in autunno. Ora il presidente della Bundesbank, Weidmann, ha messo in guardia contro un'uscita dall'euro che avrebbe gravi ripercussioni anche per la Germania. Una unione monetaria non è un club dove si può entrare e uscire senza problemi, ha detto in un'intervista alla rivista economica Capital. I ragionamenti su una crescita ed un'uscita dall'euro degli stati sudeuropei lo irritano, ha detto ancora Weidmann. Ci sarebbero forti svantaggi per la Germania e lo stesso vale anche se fosse la Germania a uscire. Un altro aspetto molto importante ribadito dal presidente della Bundesbank, Weidmann, ha ribadito di ritenere l'acquisto di titoli di Stato da parte della BCE una minaccia all'indipendenza della Banca Centrale Europea. A suo avviso bisogna portare invece avanti in modo conseguente le riforme e un'unione bancaria non dovrebbe essere ipotecata con la zavorra dei bilanci bancari. Ora il capitolo relativo al nostro paese, notizie economiche che riguardano l'Italia. Ci sono segnali positivi per la zona euro, l'Italia come al solito è più debole ma la crescita negativa è più piccola. Credo che vedremo una crescita positiva alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo, così il capo economista dell'OCSE Piercarlo Padoan. Il problema aggiunto è consolidare la crescita adesso in gran parte trainata dall'export. Quando vedremo una ripresa degli investimenti delle imprese ci sarà il consolidamento. Dall'economia al problema di tutti i giorni, il lavoro, l'occupazione, il tema degli esodati, a parlare oggi è il ministro del lavoro Giovannini, che annuncia, dopo le misure varate dal precedente governo per salvaguardare 130.000 esodati, ne restano 20-30.000, dice Giovannini, e a settembre interverremo su questa platea per risolvere definitivamente il problema. Dagli esodati alle pensioni, intervenire sulle pensioni d'oro per abbattere il deficit non credo che sia una buona idea. Quello che stiamo studiando è un intervento redistributivo, dal momento che se si chiedono sacrifici a tutti il criterio della progressività è importante, dice ancora Giovannini, che ha però aggiunto che il tema delle pensioni è un tema complicato perché per interventi che possano effettivamente avere un impatto bisogna scendere dalle pensioni d'oro a quelle d'argento e forse oltre. E ancora Giovannini sulla cassa integrazione in deroga, è pronto un decreto sul rifinanziamento ma anche sulla ridefinizione dei criteri sulla ristrutturazione dello strumento. E per quanto riguarda il lavoro vi segnalo domani con il Sole 24 Ore uscirà con il primo di due inserti speciali gratuiti dedicati alle grandi novità proprio in tema di lavoro, dalla possibilità di proroga per i contratti a tempo determinato senza causale alle agevolazioni per il distacco dei lavoratori delle imprese in rete, dai nuovi limiti all'utilizzo del lavoro a chiamata alla regolarizzazione per gli associati in partecipazione. E con Giovannini andiamo a chiudere questa prima parte delle consuete notizie internazionali e italiane. Giovannini interviene anche sull'attualità politica e dice: interrompere ora l'opera del governo proprio nel momento in cui ci sono i primi segnali positivi e ciò di cui il paese non ha bisogno. Questo le parole di Giovannini che ci danno il là al nostro primo tema e che affronteremo tra qualche istante. Il nostro primo tema è proprio la stabilità politica del governo Letta. Una stabilità importante per il nostro paese alle prese con una difficile uscita dalla crisi economica e con una maggioranza litigiosa dopo la sentenza Mediaset e di fatto il congelamento della cosiddetta agibilità politica di Silvio Berlusconi. Sembra che oggi la tensione stia arrivando forse ai massimi degli ultimi giorni, vi è un pressing del Popolo della Libertà perché in pochi giorni l'altra parte che fa parte del governo, il PD, dia delle garanzie sul futuro politico di Berlusconi. Oggi di questo ha parlato anche il Presidente del Consiglio Letta, lo abbiamo ascoltato nel GR delle 17. A quello che a noi interessa maggiormente è capire un'eventuale crisi di questo governo cosa comporterebbe sotto l'aspetto economico. Sono tanti i provvedimenti che sono stati varati, che sono all'esame del Parlamento, che fine potrebbero fare questi provvedimenti oltre al famoso capitolo dell'IMU che aspetta una risoluzione entro la fine di agosto. Parliamo di tutto ciò con un gradito ospite, il professor Alberto Quadrio Curzio, economista, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano, tra l'altro editorialista del Sole 24 Ore. Ben trovato e benvenuto, professore. Grazie. Una piccolissima rettifica, non sono più preside, ma sono vicepresidente dell'Accademia dei Lincei. Va benissimo. Grazie. Va bene. La volevo coinvolgere subito prima di andare a raccontare quello che ha detto il Presidente del Consiglio Letta, ma ascolteremo anche dei passaggi del Premier. Qual è il primo pensiero che le viene ipotizzando una fine prematura del governo Letta? Ma per quanto riguarda l'attuazione della normazione primaria che è stata recentemente varata con il decreto fare, poi convertito in legge, vedo una serie di provvedimenti importanti che andrebbero certamente a bloccarsi, perché noi sappiamo che la normativa secondaria in Italia regolamentare ha sempre una grande rilevanza sull'attuazione dei provvedimenti di normativa primaria e se non c'è il governo questa normativa secondaria regolamentare non va avanti. Che vuol dire? Da un lato che quel programma di circa 3 miliardi di euro da utilizzare per rilanciare dei cantieri avviati o dei nuovi cantieri non troverà una attuazione e questo sarebbe molto grave perché come prima stima sarebbero già 30.000 posti di lavoro di occupazione diretta, poi ci sarebbe un effetto indotto non ancora adeguatamente stimato che comunque si considera significativo. Il secondo elemento è che molti altri provvedimenti non inclusi nella normativa già adottata, ma per esempio questa questione dell'IMU che sta a quanto pare molto a cuore, soprattutto a Silvio Berlusconi, ebbene se il governo cade la mia impressione è che l'IMU si va a pagare e non dunque si sospende il pagamento sulla prima rata, trovando una soluzione alternativa alla quale il Ministero dell'Economia ha lavorato parecchio ed ha anche proposto una serie di ipotesi interessanti, tra cui una cosiddetta service tax che restituirebbe ai comuni una maggiore potestà impositiva dosando la stessa a seconda delle esigenze delle casse comunali. Infine è chiaro che il fronte dei titoli di Stato e quindi dei tassi di interesse per il servizio del nostro debito ricomincerebbe a traballare. Ecco, quindi sono quindi tre gli aspetti sostanzialmente individuati, quelli più prettamente economici, fino ad arrivare a questo spread che con fatica l'Italia ha cercato di tenere sotto controllo negli ultimi mesi, professore. Leggo velocissimamente alcune dichiarazioni del Premier Letta che così aiutano anche i nostri ascoltatori ad avere un quadro più chiaro della giornata. Partiamo prima dalle affermazioni più di taglio economico. Cogliere la ripresa significa fare scelte impegnative, dice Letta. Letta guarda anche ai prossimi mesi. La lotta alla disoccupazione sarà il cuore del semestre italiano nell'Unione Europea. Queste sono affermazioni del Premier Letta in una conferenza stampa tenuta oggi a Vienna. E siamo orgogliosi che l'Italia sia un paese con i conti in ordine, ha detto ancora il nostro Premier. Ascoltiamo questo passaggio. Se penso a un paese come l'Italia che ha fatto grandi sacrifici per stare oggi dentro i parametri del patto di stabilità. L'Italia oggi è uscita dalla procedura di deficit eccessivo, siamo orgogliosi di questo perché siamo un paese con i conti in ordine, ma l'abbiamo fatto e mentre lo facevamo mettevamo soldi per salvare paesi, banche di altri paesi europei. E quindi l'abbiamo fatto in una condizione ovviamente in cui se ci fosse stata l'unione bancaria sarebbe stato tutto diverso e quei soldi saremmo stati in grado di usarli per appunto finalità legate alla competitività, legate allo sviluppo, legate ai grandi investimenti. Ecco professore, dunque mettere in difficoltà, mettere in dubbio il governo Letta, e ci ricolleghiamo alla sua ultima parte del suo discorso, vorrebbe dire vanificare forse il lavoro del governo Monti più i primi mesi del governo Letta, anche sotto l'aspetto dei conti pubblici e quindi gli effetti, le conseguenze sullo spread con i BTP tedeschi. Certamente significherebbe quello, significherebbe che la nostra crescita, aspetto molto importante al quale il governo Letta ha dato significativa attenzione con la legge e il decreto fare, andrebbe ad essere ulteriormente danneggiata. E le stime più accreditate dicono che il nostro PIL, che come tutti sappiamo è sceso del 2,4 nel 2012, scenderà ancora dell'1,7-1,9 nel 2013 e a mio avviso la ripresa di 1,07 nel 2014, che potrebbe essere significativamente migliorata se i tassi di interesse sui titoli di Stato scendono e se si può dare esecuzione alla legge fare, salterebbe e quindi avremmo probabilmente un 2014 con una crescita molto vicina allo zero, il che significa che noi avremmo messo assieme 7 anni o quasi 8 di crisi economica che ci riportano a dei livelli di PIL pro capite indietro di circa largo più di 12-13 anni, qualcosa del genere, e ecco, poi livelli di disoccupazione molto pesanti. Certo, quindi inciderebbe sia sulla crescita che sulla disoccupazione. L'ottimismo di Letta non viene accolto benissimo da alcuni nostri ascoltatori. Primi segnali positivi, si interroga Fabrizio da Pesaro, ma ci sono anche altri SMS che si mostrano dubbiosi sul fatto che l'Italia abbia intrapreso questa strada non tanto della bontà dei conti pubblici che è stata certificata a livello europeo, quanto della crescita del prodotto interno lordo. Ancora Letta e ora è ora di applicare le decisioni dell'Unione Europea sull'unione bancaria. Se l'unione bancaria fosse esistita 3 anni fa e fosse stata già funzionante, avremmo evitato di spendere in Europa decine di miliardi di euro che avremmo potuto utilizzare in altro modo. Questa la richiesta del Premier Letta, perché si faccia presto sull'unione bancaria. Ascoltiamo questo altro passaggio. Se l'unione bancaria fosse esistita 3 anni fa e fosse stata già funzionante 3 anni fa, avremmo evitato di spendere in Europa decine e decine di miliardi di euro che avremmo potuto utilizzare in altro modo. Questa è la verità. Quando ci si pone il problema delle decisioni e dei peccati di omissione dell'Europa, dobbiamo ragionare proprio in questi termini. Se avessimo avuto tutti i meccanismi di safety net che la Unione bancaria comporta, avremmo evitato costi per decine di miliardi, quelle decine di miliardi le avremmo utilizzate in altro modo. Ecco, professore, siamo con il professor Alberto Quadrio Curzio, economista ed editorialista del Sole 24 Ore. Professore, ci aiuti a capire meglio questo passaggio, che forse è di quelli di Letta il più di difficile interpretazione per me, ma anche per gli ascoltatori. Cosa intende Letta quando si parla di unione bancaria e cosa poteva fare, ma cosa potrebbe fare se esistesse? Per l'unione bancaria significa avere una vigilanza soprattutto e forse principalmente sui grandi aggregati di istituti bancari che hanno una rilevanza sistemica per tutta l'Europa, e ciò significa anche che l'esposizione di molti istituti avrebbe potuto essere tenuta meglio sotto controllo da parte della Banca Centrale Europea, che in realtà non aveva dei poteri di vigilanza sui singoli istituti bancari, perché la vigilanza spettava a ciascuna autorità nazionale, che aveva però la vigilanza sul proprio territorio e non aveva la vigilanza invece per quanto riguardava i conglomerati bancari che operavano in vari paesi dell'Unione Europea. Quindi, professore, ecco, regole certe sotto l'aspetto soprattutto della vigilanza, regole certe per tutti i paesi e quindi una vigilanza più semplice da parte delle autorità centrali europee. Sì, che fosse una vigilanza commisurata al fatto che, essendovi una moneta unica e una banca centrale unica, ci vuole una vigilanza unificata quantomeno per quei grandi gruppi bancari che operano su tutto il territorio dell'Unione Europea. Questo poteva anche significare che istituti bancari molto grandi avrebbero usato più prudenza nel concedere crediti a paesi che hanno fatto più che un abuso del credito concesso, e tra questi vi è certamente la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda, che sono state lautamente finanziate da banche di altri grandi paesi, e con questi finanziamenti questi paesi sono andati molto più in là di quanto era la propria capacità di resistenza. Tutto ciò è stato un elemento che ha contribuito alla crisi, ma la crisi ha avuto anche altre origini pesanti, e in particolare sappiamo che la Grecia era un paese con i conti pubblici in totale disordine e che questa situazione non era stata rilevata prima dell'accettazione della Grecia stessa nell'euro. Questo rimane un problema serio, perché quando la Grecia fu accettata nell'euro ci fu una certificazione che i suoi conti pubblici erano a posto, in realtà non lo erano. L'Irlanda e il Portogallo sono due casi un po' diversi. Ad ogni misura però io credo che si debba anche segnalare questo: se le autorità istituzionali europee, con la Germania che de facto governa il Consiglio europeo, di fatto non di diritto, certo, avessero deciso di intervenire prima nella crisi greca con un contributo che poteva essere intorno ai 50-60 miliardi, probabilmente sì, tutto lo sconquasso che abbiamo avuto non si sarebbe verificato, perché da quel momento i mercati hanno incominciato a pensare che l'Europa non era in grado di governare una crisi e hanno cominciato a colpire i titoli di Stato greci, portoghesi, irlandesi, certo, spagnoli, italiani. Ed ecco perché oggi come oggi dobbiamo ricordarci di quella vicenda. Se i mercati ricominciano a fiutare che in un paese grande come l'Italia, il terzo dell'Eurozona, il terzo dell'Unione Europea, il governo non c'è più, io credo che ripartirà un attacco in misura significativa contro i titoli di Stato italiani. Ecco, non perché ce l'hanno, non perché ce l'hanno con i titoli di Stato italiani. Assolutamente. Perché se non c'è un governo, il governo non governa. Certo, percepiscono i nostri titoli più deboli. Però confida nella responsabilità di tutti proprio il Presidente del Consiglio Letta, lo ha detto sempre oggi in conferenza stampa da Vienna, e si è detto convinto che le difficoltà in questo momento tra PD e PDL siano superabili. Ascoltiamo questo passaggio. Confido nella responsabilità, lungimiranza di tutti, sicuramente la mia c'è, responsabilità, lungimiranza, penso che tutti ce la metteranno, questa stessa responsabilità e lungimiranza, perché abbiamo davanti grandi opportunità. Sarebbe paradossale se l'Italia ha tenuto duro nei momenti più duri della crisi, adesso che invece si possono cogliere gli elementi della ripresa, si può avvicinarsi alla terra promessa, finissimo dentro questioni di politica interna e ci avvitassimo dentro questioni di politica interna. Sarebbe sbagliato, sono convinto che ognuno farà la sua parte per consentirci di uscire da queste difficoltà che secondo me sono superabili. Questo dunque l'ottimismo del Presidente del Consiglio Enrico Letta. Ringrazio il professor Alberto Quadrio Curzio che è intervenuto con noi. Ora il meteo. Focus Economia. 17.33 di nuovo insieme a Focus Economia, siamo pronti per commentare una nuova giornata di Piazza Affari. Nuova giornata di Piazza Affari che ha visto di nuovo un segno meno per quanto riguarda il FTSE MIB, meno 0,72%, ma siamo insieme ad Andrea Fontana, collega di Radio Cor del Sole 24 ore. Ciao Andrea. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Benvenuto Andrea, quindi una terza giornata di settimana con chiusura negativa per Piazza Affari, che mi sembra il FTSE MIB fino a qualche minuto fa aveva retto sostanzialmente bene, poi alla fine uno scivolone finale, come si spiega? Beh sì, nell'asta di chiusura vediamo spesso dei movimenti che accentuano, amplificano un po' quello che è stato l'andamento di giornata. Effettivamente come tu dicevi, nell'ultima parte del pomeriggio sembrava che Milano e un po' tutte le borse europee riuscissero a ridurre un pochettino le perdite, quindi a limitare i danni in una giornata tutto sommato sottotono e trascorsa un po' per tutti gli indici in negativo. Invece non solo Milano, che è stata tra le peggiori, ha chiuso in perdita dello 0,72%, ma anche le altre borse europee hanno un po' amplificato le perdite. Parigi e Francoforte si sono attestate intorno allo 0,3% mentre erano piatte fino a pochi minuti prima dell'asta di chiusura. Le banche, i servizi finanziari e il settore i settori legati alle materie prime sono stati quelli più penalizzati, insieme alle assicurazioni. Hanno tenuto meglio invece settori come diciamo l'industria tradizionale e i media. Ecco Andrea, andando con ordine, iniziamo dalle banche. Anche oggi, quindi terzo giorno consecutivo della settimana, male le banche, ma c'è una relazione con questa nuova forbice tra i BTP e i Bund? Cioè sono legati gli andamenti dell'uno e degli altri o ci sono elementi particolari, indipendenti? Beh, in linea di massima lo sono, e oggi ha un nuovo incremento verso quota 250 dello spread, è corrisposto una flessione generale del settore bancario. È vero che, come accennavo inizialmente, interamente il settore del credito è stato penalizzato in Europa a livello azionario, ma bisogna anche fare delle eccezioni, perché poi questa correlazione ha dei distinguo, e il distinguo più evidente è Monte dei Paschi di Siena, che invece oggi è stato il titolo migliore a Piazza Affari, ha guadagnato quasi il 3%. È chiaro che l'attenzione su questo titolo è legato alle sorti di rilancio dell'istituto, ai possibili nuovi investitori. Adesso c'è un'attenzione particolare su quello che è il vertice del suo azionista di riferimento, cioè la Fondazione Monte dei Paschi. Questi elementi hanno portato un po' il titolo a risollevarsi, e nonostante sia un titolo che solitamente viene molto penalizzato dall'innalzamento del differenziale tra BTP e Bund, oggi Monte dei Paschi si è mosso, diciamo così, in controtendenza rispetto a quello che sono le sue abitudini. Ecco, quindi molto bene Monte dei Paschi. Carige, se non sbaglio, non andava benissimo. Sì, per quanto riguarda questo istituto c'è un'attenzione particolare che riguarda da una parte il processo di ristrutturazione in corso, dall'altra il rinnovo completo dei vertici che avverrà con l'assemblea di fine settembre. Oggi ha pagato come le altre banche, ha perso il 2,6%, un titolo che ultimamente è sottoposto a una forte pressione, a una forte volatilità tra chi scommette che ci saranno nuovi investitori, novità sul fronte sia della governance sia dell'azionariato, tra chi invece è negativo sul titolo perché teme una ricapitalizzazione ingente che potrebbe arrivare fino a 800 milioni di euro. Ecco Andrea, il caso Mediaset l'ho seguito un pochino in giornata, è molto legato evidentemente all'attualità politica questo titolo, ha avuto anche segno negativo per qualche ora, chiudendo, leggo invece adesso, a più 0,87. Sì, per quanto riguarda Mediaset diciamo che il titolo veniva da due giorni di ribassi che ci stanno, diciamo così, in questa fase, visto la straordinaria performance che ha avuto dall'inizio dell'anno, periodo nel quale il titolo ha raddoppiato il suo valore e il prezzo per azione ha superato i 3,2 euro. C'è una forte sensibilità, come tu ricordavi, a quella che è l'attualità politica, ma che poi in questo momento sta portando più che altro a un'altalena di andamenti per quanto riguarda Mediaset. Non sta prendendo una forte direzione il titolo come invece magari qualche osservatore si immaginava, e ricordiamo come anche dopo quello che è un po' l'evento cruciale di queste ultime settimane, cioè dopo la sentenza a Cassazione avvenuta a fine luglio, quindi con la conferma della condanna di Silvio Berlusconi, il titolo ha accusato una debolezza il primo giorno, ma poi si è subito poi un po' riscattato e risollevato, quindi è un titolo anche questo molto soggetto a volatilità, molto sensibile all'andamento politico, ma anche molto sensibile a quello che è l'andamento economico italiano, perché gli scenari macro si riflettono immediatamente sulla raccolta pubblicitaria e per quanto riguarda Mediaset quindi sulle prospettive di fine anno. Ecco Andrea, ricordo brevemente Italcementi meno 3%, dicevamo di Tod's che anche oggi ha una performance positiva, vi sono particolari elementi di questa concentrazione di attività su Tod's che, se non sbaglio, è il terzo giorno consecutivo che chiude tra i 3, 4, 5 migliori titoli di Piazza Affari. Per quanto riguarda Tod's, vediamo come nell'ultimo mese il titolo ha guadagnato il 13%, è un titolo che sta seguendo bene quelle che sono le indicazioni emerse nel corso della semestrale, cioè un andamento positivo della semestrale, prospettive ottimistiche per la seconda parte dell'anno da parte dei vertici, un titolo che ha rinnovato continuamente nel corso del mese di agosto, tranne qualche battuta d'arresto che naturalmente fa parte del trading giornaliero, ha rinnovato i massimi storici, quindi è un titolo che non appena le giornate sono più piuttosto tranquille, prive di elementi esterni di pressione, riprende la sua corsa verso l'alto e oggi è arrivata a superare anche in certi momenti quota 140. In generale va anche detto che oggi una debolezza dell'euro nei confronti del dollaro in attesa delle minute della Fed che saranno pubblicate in serata ha un po' favorito quelle che sono le società più esposte verso i mercati nordamericani e quindi verso il biglietto verde. Come TOTS è andata bene ad esempio ST Microelectronics, si è comportata bene Autogrill fin da questa mattina, quindi sono diversi i fattori che hanno fatto sì che TOTS fosse tra le migliori e guadagnasse oltre l'1%. Ed ecco, era questo proprio l'ultima cosa che ti volevo chiedere, Andrea. Le minute della Fed che dovrebbero arrivare in serata, lo ricordavi, che hanno così condizionato lunedì e martedì di contrattazioni, oggi sembra che poi non l'abbiano fatto più di tanto, o forse perché ci sono già delle prime anticipazioni magari che circolano negli ambienti più specializzati? Beh, certamente magari oggi non si è avvertita in maniera forte la variazione dei listini, però sicuramente diciamo che questa influenza un pochettino si è fatta sentire, tant'è vero che un dato molto positivo come quello sulla vendita delle case negli Stati Uniti nel mese di luglio che ha superato le attese ha avuto un impatto molto limitato sul mercato e che la stessa Wall Street si avvia alla quinta seduta consecutiva di ribasso, il Dow Jones adesso perde mezzo punto percentuale, quindi diciamo che è ancora un fattore che si sta facendo sentire, magari ha impattato un po' di meno che negli altri giorni diciamo sugli indici, ma certamente un elemento Bene. Che è ancora presente agli operatori dei mercati azionari. E sicuramente se usciranno questa sera queste anticipazioni della Fed vedremo domani la reazione dei mercati. Grazie ad Andrea Fontana, collega di Radio Cor del Sole 24 ore. Voltiamo pagina per un nuovo argomento. Nuovo argomento che è legato sempre alla finanza, ai mercati internazionali, perché non lo dico io ma lo dicono i più grandi commentatori, ormai le economie sono interconnesse tra loro, quindi ciò che viene deciso a Washington ha effetti non solo in Europa, a Francoforte, ma soprattutto nelle nuovissime economie emergenti, Asia, Brasile, perché sono tutte economie che guardano strettamente a Washington, alle decisioni della Federal Reserve e le difficoltà che stanno vivendo in questi giorni dopo l'annuncio della stretta, probabile stretta americana sulla liquidità internazionale, sta mettendo in difficoltà proprio India, Indonesia, Brasile, Sudafrica e Russia. Allora di questo parliamo con il nostro collega Gianluca Di Don Francesco del Sole 24 Ore. Ciao Gianluca. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori. Ecco Gianluca, prima della nostra pausa che avremo tra una quarantina di secondi, tu oggi hai scritto un bellissimo approfondimento con il collega Sorrentino sullo spettro del 97 sui paesi emergenti. Cosa vuol dire? E spieghiamolo rapidamente ai nostri ascoltatori e poi andiamo in pausa. Vuol dire che come nel 97 siamo di fronte a economie che hanno pesanti deficit commerciali, valute in picchiata, una crescita rallentata e rischiano di affrontare una crisi che potrebbe essere drammatica e potrebbe costringere a chiedere, come successe, l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale per togliersi dai guai. Ecco, tra qualche minuto approfondiremo quindi questo aspetto, la crisi soprattutto dell'India, con il collega Di Don Francesco, una pausa e il traffico. Focus Economia. 17:46 e 23 secondi di nuovo insieme per l'ultima parte di Focus Economia, ultima parte che almeno ora abbiamo chiamato Rischio India. Siamo insieme al collega Gianluca Di Don Francesco del Sole 24 Ore. Perché Rischio India, Gianluca? L'India è un po' l'emblema della crisi che sta coinvolgendo, che sta colpendo le economie emergenti. È l'emblema perché è il paese che più sta risentendo dello spostamento, della fuga di capitali che, come dicevi tu, è stata proprio innescata dall'annuncio, dell'accenno il 22 maggio da parte della Fed della possibile prossima fine degli allentamenti monetari. Quindi i capitali si stanno spostando dalle economie emergenti, stanno uscendo. I paesi che hanno gli squilibri strutturali interni più forti sono quelli che soffrono di più. L'India, che storicamente ha grossi problemi di burocrazia elefantiaca, corruzione, infrastrutture arretrate e forte deficit commerciale, quindi squilibrio nei conti con l'estero, sta soffrendo molto questa fuga di capitali. Basti pensare che in soli 3 mesi gli investitori hanno ritirato 12 miliardi di dollari dai mercati finanziari indiani, soprattutto quelli del debito, e la valuta nello stesso arco di tempo ha perso il 14%. Quindi diventa più costoso per l'India acquisire dollari? E soprattutto in concomitanza con questa stretta annunciata della Fed, e di qui ecco la fuga dei capitali, tra l'altro. Esattamente, tornano verso le si spostano, diciamo, dalle aree considerate a rischio, ritornano in parte nelle economie occidentali, questo anche perché la situazione nell'Eurozona dopo il discorso di Draghi dell'anno scorso si è stabilizzata, quindi abbiamo visto gli spread che sono tornati a livelli accettabili nei paesi periferici dell'Eurozona, questo significa che il rischio Eurozona è calato, questo significa che tornano i capitali nelle economie occidentali, escono dagli emergenti. Questo, Gianluca, quindi il caso India. Gli altri paesi che voi prendete in considerazione nell'articolo, Indonesia, Brasile, Sudafrica e Russia, leggendo sempre il vostro articolo, come paesi emergenti ma produttori di materie prime, stanno soffrendo anche la stretta cosiddetta cinese, ovvero anche la Cina, con suoi problemi interni, comunque di una crescita che non è più quella di qualche anno fa, non acquista più in massa le materie prime in questi paesi, che hanno meno quindi moneta, perché la Cina comprava in dollari, meno dollari che arrivano dalla Cina, e anche questi paesi quindi sono fortemente in difficoltà. E questa è una giusta interpretazione? Hai detto perfettamente, la Cina ha influenzato le altre economie emergenti, appunto come hai detto perfettamente tu, su due lati, uno con la stretta sulla propria liquidità, dovendo arginare già dal 2010 una bolla immobiliare e finanziaria che cominciava a essere preoccupante. E poi ridefinendo il proprio modello di crescita. Per la Cina ridefinire il modello di crescita significa anche crescere meno e di conseguenza importare meno, consumare meno materie prime, meno energia. Quindi ecco, vediamo come da una parte su questi paesi emergenti influisce l'economia americana ma anche l'economia cinese, e tra l'altro in difficoltà anche un paese enorme come la Russia, ricchissimo sotto l'aspetto del sottosuolo e di tante materie prime che ha, ma se non sbaglio stanno parlando in Russia anche in questo caso di gravi difficoltà finanziarie che riporterebbe al 98, quando ci fu il cosiddetto lunedì nero del rublo. Sì, quando Mosca dovette alzare bandiera bianca e dichiarare default sul debito sovrano in quella che è stata la più grave crisi finanziaria attraversata da questo paese. La situazione oggi è certamente molto diversa, ma diciamo che la ferita è aperta e nella memoria di molti cittadini russi è quell'evento ancora molto vicino, quindi il calo del rublo che tutto sommato è stato solo del 5% dall'inizio dell'anno, comunque fa temere questo scenario, ha innescato un dibattito fra gli accademici. Il problema è che la Russia, un po' come l'India, ha nodi strutturali non risolti, una mancata modernizzazione del sistema produttivo, anche qui corruzione, burocrazia invasiva, che non sono, diciamo, l'ambiente ideale per lo sviluppo economico. Bene, bene, quindi una grande ricchezza che non è stata messa almeno al momento a disposizione di un ammodernamento dei rispettivi paesi. Ringraziamo Gianluca Di Don Francesco del Sole 24 Ore. Chiudiamo questo aspetto dedicato ai paesi emergenti e alle loro difficoltà e passiamo ad un altro argomento. Ultima parte di Focus Economia di oggi, dedicata al turismo. Ne abbiamo parlato anche lunedì del turismo in Italia, delle sue difficoltà. La stagione è ancora in corso nonostante il maltempo in alcune parti del paese, ma mi sembra giusto tornare quasi a fine stagione sulle difficoltà che continua ad incontrare il nostro paese nell'attrarre i turisti soprattutto nel nord Europa. Ricordiamo che è un target che il target più facoltoso e il più interessante per i paesi del Mediterraneo, in quanto portano quella valuta importante che fa bene a tante economie, a partire da quella spagnola, che se non fosse per il turismo avrebbe al momento difficoltà più gravi di quelle che ha già. Ricordo solamente alcuni numeri per quanto riguarda l'Italia. L'Italia è stato leader mondiale nel 70, oggi è scesa la quinta destinazione più visitata, ma si è fatta superare nella classifica da Francia, Spagna, Stati Uniti e Cina. Ora abbiamo con noi il collega Mariano Maugeri del Sole 24 Ore. Ciao Mariano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Mariano. Senti, prima di andare nello specifico, se io dico questo numero 223 a 17, cosa devono pensare i nostri ascoltatori? Sono i voli e la differenza tra i voli che arrivano alle Baleari dal resto d'Europa e quelli che arrivano in Sicilia. Questo è lo scarto imponente che ci mette in qualche modo in pessima luce e che sottolinea un dato che tu giustamente citavi un attimo fa, cioè quello che ricava la Spagna dal turismo. Il turismo equivale al 20% del PIL spagnolo, è quello che ricava l'Italia, meno del 10%, malgrado, è utile ricordarlo anche questo, l'Italia abbia una concentrazione di bellezze straordinarie che non ha uguali nel resto d'Europa e che sia al primo posto il nostro paese nella lista dell'UNESCO per i beni tutelati, quindi che sono patrimonio dell'umanità. Ecco, malgrado queste enormi bellezze, c'è uno scarto 20 a 10 tra Spagna e Italia che ben è sintetizzato dal numero dei voli che arrivano in Sicilia e quelli che invece hanno come destinazione le Baleari. Ecco, tra l'altro Mariano, ricordiamo, noi stiamo pensando solamente alle Baleari, 3-4 isole al centro del Mediterraneo, vicino alla Spagna, al confronto con la Sicilia, quindi anche a livello dimensionale di popolazione, ma anche dei reperti storico-culturali che abbiamo in Sicilia, il paragone non dovrebbe neanche esistere. Nonostante ciò abbiamo 223 voli che partono dalla Germania e vanno alle isole Baleari contro soli 17. Per presenze internazionali alle Baleari 41,2 milioni di notti, rispetto ai 3,7 milioni di notti che fa l'intera Sicilia. Questo sono sempre dati che leggo dal tuo articolo oggi del Sole 24 Ore. Qual è la difficoltà? Quali sono i difetti strutturali che tu evidenzi per quanto riguarda la Sicilia? Mi sembra la cronica frammentazione dei centri turistici nella loro offerta all'estero. Sì, ma drammaticamente c'è un dualismo che tutti conosciamo in economia tra nord e sud, che è vieppiù rimarcato dal dualismo nel turismo. Cioè, le grandi mete turistiche italiane non sono al sud, come sarebbe naturale pensare, ma sono Roma, Firenze, Milano, Venezia. Queste le quattro città più visitate, e alle quali vanno aggiunte il lago di Garda, versante trentino, che è una meta ormai gettonatissima dai tedeschi da anni, e le Dolomiti. Qui si chiude il ragionamento, perché da Napoli in giù sostanzialmente vanno pochissimi visitatori, sia italiani che stranieri, malgrado ci sia la ripresa del Salento negli ultimi anni, quindi ci sono, come dire, come sempre la situazione del sud è a macchia di leopardo, ci sono emergono, come dire, delle nuove istanze e dei nuovi modelli turistici, che però non invertono il trend, che rimane drammaticamente appunto duale tra nord e sud. A sud di Roma sostanzialmente non va nessuno, vanno pochissimi stranieri. Come mai? Ecco, questa sarebbe una bella domanda. Mariano, cerchiamo di capire proprio nell'ultimo minuto che abbiamo di trasmissione. È un fatto di infrastrutture, forse, per quanto riguarda treno ed auto per il sud, ma non per gli aerei, perché se c'è una particolarità del nostro paese è che ha un aeroporto praticamente ogni chilometro quadrato. Allora, perché non si riesce poi a portare dei turisti, per esempio in Sicilia, ma anche in Sardegna, in Puglia? È un concorso di cause, purtroppo. C'è il problema delle infrastrutture e degli aerei. Adesso, infatti, nell'articolo citavo la presa di posizione del governatore Crocetta, che vuole creare una compagnia siciliana, aerea siciliana. È utile appunto sapere che quella che preesisteva, Winjet, è stata chiusa sostanzialmente sotto una mole enorme di debiti. Meridiana, la compagnia sarda dell'Aga Khan, sopravvive grazie agli assegni del principe Karim, quindi alla sua beneficenza, diciamo filantropia. E c'è anche un problema di sicurezza che ben conosciamo. A Napoli, per esempio, più volte i turisti sono stati ripetutamente Cippati, certo. Alcuni feriti, quindi insomma c'è i un problemi sono tanti, Mariano. Siamo in chiusura, io ti ringrazio. Quindi infrastrutture e sicurezza, i problemi principali del sud Italia. Ringrazio Alessandro Cappini, Valeria Bernardi, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24. La passione si sente.